Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, siamo qua alle 8 e 17 minuti, caro Oscar. Di questa giornata che insomma vede il progresso una squadra italiana. Il trionfo, il triplete della Juve, Champions League, Scudetto, Coppa Italia, complimenti. Un'annata spettacolare. È tutto già fatto. Sì, perché non... andiamo alle conclusioni. Io non ho mai fatto il triplete, loro sì, insieme all'Inter, bravi. Bisogna inchinarsi alla loro superiorità. Va bene, adesso vediamo cosa succede alle prossime... No, è già finita. Io capisco che parlarne in fandom regina, Juve e Trenovare dolore, ma dai. Hai fatto tutto. Allora io mi piego di fronte alla tua scelta. Vi do una notizia in anteprima, è fatta. No, ma io te lo sai che, cari ascoltatori, noi siamo avanti. Purtroppo quindi, è fatta. E vabbè, c'è qualche margine ancora di improbabilità. Poi naturalmente noi ci auguriamo. Salutiamo il mitico Marco, lui sa che mi scrive gufo infame. Ma no, vi posso garantire, era tutto cominciato nel migliore dei modi. Non capisco. E poi è bellissimo vedere la Juve che va avanti, magari ieri diciamo Higuaín qualche paperotta ha fatto. Però vabbè, d'accordo. Non l'ho vista. Ma vedi, tu ti astieni dai grandi vanti nazionali, fatta, per così dire, fatta. No? Se è fatta. Dai, passiamo ai santi. No, scusa, i santi sono questi in Italia. Il pallone, più del pallone è difficile trovarne. Comunque, insomma, oggi Sant'Agnese Montepulciano, una badessa 15 anni, ma lo dico senza ombra di critica, nel senso che intorno a questa santa del 300, fin da la contemporaneità, difficile constatare le leggende, c'è stata un'aura di totale riconoscimento di qualità spirituali superiori, quindi Miracoletto è stato in vita, eccetera eccetera, e quindi oggi Sant'Agnese di Montepulciano insieme a tantissimi santi. Oggi è un giorno fitto, gremito, Aniceto, Donnino, Marcellino, Marciano, quindi auguri a tutti coloro che portano anche questi nomi. Tante cose venute nella storia, ma nel 1964 oggi veniva commercializzato il primo vasetto di Nutella dalla Ferrero, quindi questa... Chissà quanti li hanno consumati. Allora. Ma pensa che rimane il brand italiano più famoso nel mondo, certo. Il mitico Cavalier Ferrero, non so se l'hai mai conosciuto o intervistato nella vita. Un personaggio straordinario. Nel 2013 Napolitano veniva eletto al secondo mandato con 730 voti. E pensa, oggi c'è un allineamento di compleanni di quelli che fanno grattare la testa. Aia. Perché secondo le fonti questo sarebbe il giorno, quello giusto, in cui nel 570 nasceva Maometto. E vabbè. Poi nel 1889 nasceva Hitler. E vabbè. Dopodiché oggi fa gli anni Massimo D'Alema. Allora uno dice, ma qua proprio ci volete far pensare. Oscar, però adesso ti devo dare una notizia. Leonardo Manera. No, è il compleanno di Leonardo Manera. No. Angelica Milan. Ma io veramente non so cosa 11 dire. 11 anni, nonché la sua amichetta Emma. Capisco che Maometto, Hitler, D'Alema e Angelica. Noi ti abbracciamo perché lo sappiamo che tu sei venuta e nata per redimere tutti coloro che nascevano invece questo stesso giorno. Ecco. Va bene. E auguri comunque anche a Leonardo Manera. Leonardo Manera, attore, cabarettista, certo, compagno Manera sul palcoscenico di Alessandro Milan. Leonardo Manera, chiaro. Che fa gli anni nel giorno in cui compie anche mia figlia e Hitler. E Hitler è D'Alema e Maometto. Cioè, Maometto non lo sapevo. Ci sono, per così dire. Quindi, come si vede, bisogna... È un po' più incerta forse la data di nascita. E infatti ho detto sarebbe, ma le altre due sono certe. Sono certe. Vabbè. Cari Angelica, ascoltatori, ti abbracciamo. Ti vogliamo tanto bene. 11 anni. Allora, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Caro Oscar, hai visto che l'hanno già ribattezzato il teogrillismo. Il teogrillismo. Ieri abbiamo parlato, i cattolici, il Movimento 5 Stelle, poi ci sono state polemiche, il direttore di Avvenire che dice ho parlato a titolo personale. Infatti pare che Grillo inizia a dire anche lui, uno di voi mi tradirà. No. Cioè, ci sono, come no, Addirittura. Destimmate non ancora. Però Famiglia Cristiana, come hai visto, si è dissociata. Beh, giustamente anche il mondo cattolico poi. Alla sua pluralismo. È diviso, al suo pluralismo, alle sue questioni. Mentre il direttore dell'Avvenire, se, essendo mio modesto giudizio troppo palese e l'incrocio che c'era tra la sua intervista e quella, quello sì è ha stato dovuto fare un passetto altro. Indietro, perché forse qualche vescovino ha detto: sentite, è un po' troppo manifesta la manovra, per così dire, no? Secondo alcuni, per esempio, la Verità dice puntano, ma neanche ai vescovi, alla Chiesa, proprio al Papa Bergoglio. Ma sai che infatti qualche giorno fa era uscita la notizia, Grillo pronto a incontrare il Papa. Quindi si dice, no, Bergoglio è un grillino, tante volte si è detto, no, semplificando in maniera... semplificare così, però effettivamente le punte anticapitaliste del Papa argentino, beh, ci sono, ecco, non è, voglio dire, Giovanni Paolo II, non è Benedetto XVI, non mi pare un'interpretazione troppo forzata questa. Cioè, ci può stare. Mentre all'interno della CEI ci sono, come in tutte le conferenze episcopali, insomma, toni e personalità diverse. Ma quella di Bergoglio, tutto sommato, su molti temi. Sì. Non so se anche sui vaccini, però. Sui vaccini, vabbè, insomma. Sui vaccini oggi devo dire che Sallusti, secondo me, è stato il migliore nel suo editoriale. Su questa questione dei vaccini io non capisco veramente come mai ci sia questa... dove ci sia questo nato questo impazzimento per cui io credo che l'ideologia faccia molto molto male e fa molto male soprattutto quando poi nell'informazione fa assumere dei toni da pregiudizio, prese di posizione a partiti contrapposti, come se da una parte ci fosse non so il bene pubblico, come si dice oggi, no? Quindi la sorveglianza democratica. Ecco, a me ha colpito molto, perché dagli amici di Report, che è una trasmissione che ha avuto comunque un'oggettività innegabile come rilevanza e apporto alle formazioni italiane molto asfittica, ecco, mi sarei proprio per questo aspettato una franca correzione di tiro dopo quella puntata. Anche perché, e non l'appello alla farmacovigilanza attiva, l'appello alla farmacovigilanza attiva, perdonami, è sbagliato, non c'entra niente, no, non con c'entra scantonare nulla. Sui vaccini non c'entra nulla, anche perché giusto citare un dato, no? Poi quando uno vede magari le puntate dice ma voglio sapere che succede a mio figlio se la vaccino, oggi infatti Sallusti cita questo dato. Giusto, ma bisognerebbe chiedersi anche cosa succede se non vaccino. La risposta è all'80% di probabilità di beccarsi nella forma più lieve il papillomavirus. Se invece si vaccina, ha una possibilità su 1 milione di effetti collaterali. Ecco, uno poi sceglie in base ai numeri e poi sceglie quello che vuole, in libertà e in democrazia. Poi, parliamoci chiaro, alla radice di tutto c'è l'idea... ci vogliono rimbottire per far fare soldi alle aziende private. Quindi l'avversione all'impresa, al capitalismo, eccetera, eccetera, diventa antiscienza. Benissimo, torniamo a fare i raccoglitori preistorici. Perché l'ideologia poi alla fine, se uno la dovesse, per così dire, seguire come strada concreta, spogliamoci di tutto. Però non è chiaro, so che metterla così porta delle reazioni negative, dicendo stai ragionando per paradossi. No, il paradosso è credere che gli anni e anni e anni di test, prima scientifici, poi non sugli umani e così via, che precedono la messa in commercio e l'adozione nei prontuari sanitari nazionali di ogni farmaco e a maggior ragione di ogni vaccino, anni e anni e anni, capite? Anni e anni e anni, sia invece una falsità, perché l'unica cosa è arriva un signore con le sue borsette piene di soldi e dice ecco i miei farmaci. Non avete un'idea un po' singolare di come funziona? Comunque non è proprio il tema, cioè se volete intervenire su questo, ma noi volevamo approfondire un altro tema che è questo. È stata ribattezzata, forse impropriamente, però un pizzico di ragione forse c'è, la tassa anti o la tassa Airbnb. Sapete, Airbnb è questa piattaforma attraverso cui nel mondo milioni di persone mettono a disposizione appartamenti, stanze, case. Io la chiamo la tassa filo alberghi. La tassa filo alberghi. Perché la politica la mette, come in tutte le forme di sharing economy, per tutelare forme tradizionali e precedenti di offerta di servizi legittime, ma accomunando invece forme diverse di offerte. La politica lo fa perché le lobby tradizionali, come quella dei taxi, quella degli alberghi, eccetera, home restaurant, la stessa cosa, premono, e allora si prende Airbnb, si prende l'home restaurant, si prendono i servizi su piattaforma e li si omologa all'offerta precedente. E cioè, quindi tecnicamente verrà messa una cedolare secca del 21% da versare allo Stato per chi affitta appartamenti affitta attraverso case, la piattaforma, attraverso la piattaforma. E l'obbligo è in capo alla piattaforma di fare il sostituto di imposta, cioè di segnalare tra l'altro all'Agenzia delle Entrate i nomi di chi, di trattenere questa imposta del 21%, segnalare i nomi all'Agenzia delle Entrate e fare il sostituto di imposta. Con noi c'è, lo ringraziamo, Matteo Stefanelli, che è il country manager di Airbnb per l'Italia. Buongiorno e benvenuto Stefanelli, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie. Allora, intanto come avete preso questa idea di questa cedolare secca che arriva? Allora, sulla cedolare secca, insomma, era già applicabile agli affitti brevi, quindi già prima di questa manovra. Il vero cambio di paradigma è quello che riguarda il ruolo della piattaforma, come dicevate voi. E sinceramente, insomma, abbiamo forti perplessità proprio sulla fattibilità del ruolo di sostituto d'imposta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, però ci sono delle condizioni, come dire, inderogabili su cui non si può prescindere. Tipo questa, non volete fare il sostituto d'imposta? No, assolutamente no, perché è proprio incompatibile con il nostro ruolo di piattaforma. Non va veramente d'accordo, e già l'Agenzia delle Entrate si era espressa in questo senso in passato. Pazzesco, quando sì. Si era discussa l'eventualità rispetto alla legge sulla sharing. Mi faccia capire però, su questa cedolare secca, se arriva, voglio dire, siete pronti ad adeguarvi? Che vuol dire, la pagheranno gli host, cioè quelli che affittano, ecco. Ma di nuovo, cioè non è qualcosa di nuovo, la cedolare secca era già prevista e gli host sono già tenuti a pagare le tasse come preferiscono. Abbiamo sia la cedolare secca sia altre modalità. Il punto, e qui non ci adeguiamo, è che non è possibile per noi, dall'oggi al domani, l'avete detto voi stessi, e questa è stata definita anche se impropriamente la legge Airbnb, non possiamo dall'oggi al domani raccogliere le tasse su milioni di transazioni, su centinaia di migliaia di posizioni fiscali, senza essere mai stati interpellati. Fondamentalmente la tassa Airbnb, ma noi non siamo mai stati seduti al tavolo per parlarne. Siamo pronti a parlarne, c'è una strada per arrivare a fare la raccolta della tassa. Noi già facciamo la raccolta della tassa di soggiorno in modalità che sono con noi compatibili, che ci permettono di mantenere la nostra posizione di piattaforma, che ci permettono di rispettare le normative italiane ed europee sulla tutela e la privacy dei dati, e che insomma attuiamo già in diverse città di tutto il mondo. Non però a queste A queste condizioni. Cosa risponde agli albergatori che accusano? Sa che a Genova, per esempio, in Liguria, ieri dava conto il Secolo XIX, gli albergatori hanno fatto un vero e proprio CD con dentro 9.000 nomi passati alle procure, ai questori, no, alle procure no, ai questori e ai sindaci, con i nomi di coloro che, dicono gli albergatori, affittano in nero. Pronti anche a svelarli ai sindaci, non li sveleranno pubblicamente, non è una gogna pubblica, però hanno fatto questa cosa. Cosa risponde alle loro accuse? Ma io dico di guardare i dati, perché nel 2016 Airbnb in Liguria ha avuto circa 1 milione di presenze. Allora, se andiamo a vedere, diciamo, quello che ha registrato in tutto il settore, gli arrivi in tutto il settore, stiamo parlando di 14 milioni di presenze. Allora, va bene fare la nostra parte, e noi ricordiamo sempre agli host che devono pagare le tasse, tutte le transazioni su Airbnb sono tracciate, però non possiamo diventare il capro espiatorio rispetto al nero, perché chi usa la piattaforma è molto più tracciabile. Qui stiamo parlando di persone che sono lontane dalla piattaforma, che sono lontane da qualsiasi tipo di tracciabilità, e fondamentalmente, questo è, se vuoi, l'ultimo punto poi della nostra, insomma, delle condizioni che abbiamo richiesto. Crediamo sia necessario avere una tassazione incentivante per evitare in qualche modo che queste persone, che sono oggi, come dire, lontane dalle piattaforme, da qualsiasi forma di tracciabilità, restino lì dove sono, e in qualche modo si crea l'effetto contrario. Queste persone poi non vanno sulle piattaforme perché magari la tassazione non è incentivante. Allora, di nuovo, non possiamo diventare il capro espiatorio, guardiamo i numeri. Ovviamente, come dicevate prima, gli alberghi hanno bisogno di dipingere un nemico, però siamo attenti, guardiamo i numeri. Ma sono il nemico. Però naturalmente questa idea di albergatore è una classica manifestazione degli effetti a cui porta, e io non demonizzo loro, degli effetti a cui porta la depredazione fiscale dello Stato, che alla fine per disperazione provoca, ed è un effetto voluto, la lotta interna tra classi tra contribuenti, classi, sì. No? Ciascuna delle quali si sente più vessata e dice anche tu, mi faccio io il delatore contro quelli che non pagano. Questo certo, è dice, monte, da sempre un effetto propagandistico dell'Agenzia delle Entrate, dell'apparato tributario, quando ogni anno pubblica, per esempio, lo ricordo con un esempio concreto, inoppugnabile, quando ogni anno pubblicano la media delle dichiarazioni dei professionisti, commercianti, artigiani, escludendo quello che pagano sulle imprese individuali, è apposta fatto così perché i dipendenti e pensionati dicono ecco vedi loro niente, naturalmente è una truffa statistica quella che fanno, ogni anno lo ripeto, quindi è così, non è che me lo invento. Allora in questo alla fine i contribuenti si puntano il dito l'uno contro l'altro, invece dovremmo capire che poi le forme diverse, ripeto, le forme diverse di offerta e di domanda sul mercato del può essere l'accoglienza, può essere la ristorazione, può essere il trasporto non di linea eccetera eccetera, creano occupazione in più, più consumo, più commercio, più reddito eccetera eccetera. Invece stiamo, l'Italia della reazione contro lo Stato vessatore alla fine vuole meno di tutto questo. Poi scusa, io faccio una considerazione a Stefanelli, voi lo sapete, anche se è ovvio che nella comunicazione pubblica dovete non toccare temi troppo, per così dire, delicati, no? Perché con la politica, con il legislatore bisogna avere rapporti corretti. Il motivo per il quale il legislatore, o meno la parte consapevole del Parlamento che vota questi provvedimenti, vuole che facciate il socio d'imposta, deriva dal tentativo, per la vostra piattaforma come quella in altri segmenti del mercato, che voi siate, tra virgolette, davvero obbligati a trattare milioni di dati, perché questo è il presupposto, perché voi abbiate, abbiate a quel punto quella che si chiama la stabile organizzazione in Italia, che vi obbligherebbe a pagare molte più imposte in Italia, perché il nostro presupposto della tassazione sui gruppi multinazionali è appunto, per accordi bilaterali, quello che bisogna avere una stabile organizzazione. Senza stabile organizzazione, se si fanno attività solo online su server all'estero, non c'è il presupposto, tranne che per l'IVA, poi per l'imposizione diretta sul reddito d'impresa. Questo è il punto di fondo. L'onorevole Boccia, per esempio, è uno di quelli che lo dice chiaro. Allora, a questo tipo di osservazione della politica, voi come rispondete, Stefanelli? Allora, il tema della tassazione delle imprese, insomma, multinazionali poi, no? Perché certo, si punta certo. Il dito sempre sulle aziende digitali, però ci si scorda di tutto il resto. Esatto. Allora, no, non è sicuramente nuovo, sicuramente non lo è nel nostro caso, però io ci tengo a sottolineare un passaggio, cioè il 97% del prezzo deciso autonomamente da ogni host su ogni notte che lui, insomma, riceve, certo. Rimane sul territorio, nelle mani degli host, e con un enorme effetto, insomma, redistributivo, esatto. Rispetto a quelle che sono le opportunità di guadagno del turismo, e non, insomma, invece quello che avviene oggi, questo effetto poi resta solo, no, nelle solite mani, invece noi lo spalmiamo sul territorio. Quindi abbiamo stimato anche qual è stato l'impatto in termini economici. Per esempio, durante lo scorso anno Airbnb ha portato sull'economia un impatto di 3,4 miliardi di euro. Allora, tutti questi soldi sono rimasti in Italia, l'effetto redistributivo, e se vuoi, non tutte le aziende che hanno il problema della stabile organizzazione, eccetera, possono dire di fare questo sul territorio. Quindi guarda, mettiamo tutto in prospettiva. Sì, c'è un'altra accusa che è stata fatta soprattutto in tempi moderni e odierni, dobbiamo fare conto che questo tipo di problematica, che è la questione dei controlli antiterrorismo. Per esempio gli albergatori liguri dicono come facciamo a sapere le persone che vengono ospitate, chi sono, tutti coloro che vanno in un albergo devono essere segnalati per legge alle questure. Ma ti pare che quelli dell'ISIS usano le piattaforme digitali per lasciare le tracce di dove prendono le case? Vabbè, quelli dell'ISIS, però molti dell'ISIS poi sono persone comuni fino a poco prima di colpire. Ecco, a questo tipo di problematica, le problematiche antiterrorismo, voi come rispondete, Stefanelli? Innanzitutto è obbligatorio comunicare le generalità dei viaggiatori alle autorità competenti. C'è un sito per farlo. Quello che noi abbiamo in qualche modo agevolato, reso più automatico, con un accordo poi col prefetto Gabrielli, e questo è avvenuto durante il periodo del Giubileo, dove fondamentalmente i nostri host non riuscivano ad accedere a quello che è il sito che permette in maniera automatica di comunicare queste generalità. Allora, con un accordo che abbiamo fatto con il prefetto Gabrielli, fondamentalmente abbiamo reso accessibile questo sito a tutti gli host. Ora, a parte questo, noi tutte le volte che è necessario e che è possibile ricordiamo agli host l'obbligo di comunicare le generalità, e non solo, ricordiamo agli host tutti gli obblighi del caso, anche quello di pagare le tasse, in modo tale di nuovo da utilizzare la piattaforma come strumento di sensibilizzazione e di comunicazione che insomma altrimenti lo Stato difficilmente avrebbe. Quindi di nuovo al servizio di quelle che sono le necessità locali. Dice, noi diamo tutti gli strumenti a coloro che usufruiscono di queste piattaforme di farlo secondo le norme, rispettando le regole, pagando le tasse, segnalando le persone. E poi, insomma, magari un domani riusciremo a farlo noi in automatico, chi lo sa, però un passo alla volta, tutto passa per una discussione con le istituzioni, non un'imposizione dall'alto che poi dall'oggi al domani insomma ci metterebbe veramente in una situazione di impasto come insomma. A parte, per concludere, voi notate come lei rappresenta Airbnb per l'Italia che ci sia un po' una chiusura anche culturale oltre che un ostracismo economico, proprio una chiusura che si può allargare anche sul tema taxi, Uber, sul tema degli home restaurant, sul tema delle piattaforme, cioè che siamo un po' indietro in Italia rispetto al mondo su questo settore. Allora, per quanto riguarda l'ospitalità, il turismo eccetera, devo dire che non siamo poi messi malissimo. Sinceramente l'ospitalità in casa era qualcosa che qui in Italia esisteva già, che Airbnb ha automatizzato, ha fatto emergere, però dall'altro lato insomma esistevano già delle previsioni. No, ma magari la stretta culturale non a livello delle persone, le persone cioè uno... Diciamo che c'è una forte resistenza politica, delle lobby, non lo so, ecco, delle lobby, cioè nota sì, c'era già secondo me, c'erano i presupposti culturali e che poi si rispecchiavano anche nella legge. La verità è che c'è una grossissima però complessità burocratica, amministrativa, perché abbiamo 20 leggi regionali diverse che stabiliscono 20 criteri diversi su come affittare con mille complicazioni. I nostri host, pur volendo rispettare la legge, pagare le tasse e fare tutto quello che è dovuto, si trovano davanti a grandissimi ostacoli burocratici. Allora, la verità è che seppur siamo nella cultura italiana, l'ospitalità extra-alberghiera è radicata, perché noi abbiamo, diciamoci la verità, abbiamo più ospitalità extra-alberghiera che camere d'hotel. In moltissime località italiane non ci sono hotel, l'attrattività del paese sarebbe danneggiata senza l'extra-alberghiero. No, è chiaro. Che ben venga, perché siamo un paese super frammentato. Però dall'altro lato poi ci si scontra con una legge che è veramente... Beh, la burocrazia, insomma, quello benvenuto in Italia, ma insomma lo sa Matteo Stefanelli, che ringraziamo, che il country manager di Airbnb in Italia, grazie, sei stato ovviamente con noi, Stefanelli. Perché poi non è che, voglio dire, se tu prendi l'antitrust regolarmente di fronte agli interventi legislativi dice no, è che la politica se ne frega, perché la politica pensa ai voti, cioè l'antitrust nei 2 o 3 bollettini fa si è appena occupato del disegno di legge passato alla Camera in attesa di esame al Senato, che è quello che interviene appunto sugli home restaurant. Sugli home restaurant stanno esattamente facendo come hanno fatto su Airbnb. Prima gli mettono i limiti per legge e poi diventa il presupposto per la stangata fiscale, perché tu pensa che per l'home restaurant hanno messo in questo disegno di legge approvato alla Camera dei limiti giornalieri, mensili, annuali, di numero di coperti, di reddito che puoi fare, obbligo di certificati che devi avere per offrire il cibo a casa tua, esattamente come prescrivere che se cucina chiunque a casa tua la tua collaboratrice eccetera, deve avere una certificazione, ti porto del pesce, perché sennò vuol dire che puoi avvelenare qualcuno a casa tua. Ecco, è tutto questo che l'antitrust boccia, e la direttiva anche europea non prescrive limiti di questo tipo, e poi il presupposto per dire e adesso inizio a tassarti come se fossi un ristorante. Quindi se io ti porto una torta, oppure tu mi porti una torta per Angelica questa no sera. Perché tu mi puoi dire fammi vedere la certificazione, ma l'hai fatto il corso per l'abilitazione biosanitaria al trattamento degli ingredienti? No, non l'hai fatto. Ti denuncio eccetera eccetera, e soprattutto fammi vedere da dove viene le fatture degli ingredienti, non ce l'hai, ti denuncio. Questa è la maniera con cui si fa in Italia. Beh, abbiamo distrutto tutte le cene, tutte le cene del venerdì, del sabato sera, tutti gli ospiti. Non portate più pasticcini, assolutamente. No, assolutamente no. Non portate più una bottiglia di vino, magari è stata... Allora, io naturalmente... Questo mi interroga perché il fenomeno è generale. Da una parte la politica secondo me non ha bene idea, ma però alcuni sono consapevoli invece. Chi prepara i progetti di legge sono consapevoli. Sono poi quelli che vanno dalle associazioni che rappresentano, e io non li voglio demonizzare, l'offerta tradizionale per dire avete visto? Avete visto ragazzi? Ricordatevi di noi, ricordatevi che avete degli amici. Ecco, questo è... Dai, le 8:41, andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con gli ascoltatori. State... 24 mattino, attenti a noi due. 8:44 minuti. Voi dovete sapere che nelle pause fervono dibattiti. Sì, noi stavamo sistemando tipo i problemi del mondo in questo momento. Si parlava del 18enne del Monaco, però vabbè, fenomeno, fenomeno vero. Stavamo dicendo, ma chi potrà fermare la Juventus? No, non era questo, il tema era che se non chi potrà fermare. Ma perché no, ci tieni? Qui non si esce dal palazzo, poi se la metti così. Volevo dire un'altra cosa. Ecco. Era un wishful thinking, come dicono gli inglesi. Della vittoria della Juventus. Io ci tengo a tutelarti. E tu invece ti inguai da solo. Andiamo a Milano, dove c'è Anna. Buongiorno, Anna. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io da 2 anni faccio appunto l'house sharing con l'Airbnb. Forse sono una delle poche che ha pagato circa il 30% di tasse. E ho cercato di iscrivermi al SUAP per questa attività, ma è diventato così complesso che dopo aver messo i dati nel computer, ho trasformato i documenti in PDF, tutte quelle cose lì, mi sono dovuta fermare perché è impossibile andare avanti. E ho scritto una mail alla Regione Lombardia dicendo appunto prima voi volete le cose che uno si mette in regola e poi le rendete impossibile. Io mi fermo, non vado avanti, quando rendete le cose più facile continuo di nuovo a cercare di mettermi a posto. Ah, giustamente Anna dice io ci ho pure provato, ma di fronte a madama burocrazia io ci rinuncio. Voi sistemate le cose, fate le più semplici e io lo faccio. E aggiungo che chi è che fa l'house sharing, questo tipo di turismo, comunque non sarebbe andato in albergo. L'Airbnb non ha tolto niente a nessuno. Perché vuole questo tipo di attività, vuole il calore di una famiglia, vuole l'odore di quando si cucina. Perché io dovrei offrire soltanto il breakfast, però mi piace invitarli a cena, quanti giorni stanno, non importa, perché si discute, scambiano culture. È un'offerta diversa. Che è un po' con la questione di Uber. Ma è un'offerta diversa, esattamente come io, se voglio, la mia domanda è di accettare una tariffa variabile dall'offerta di trasporto dai momenti di picco, è completamente diverso di uno che dice io voglio un trasporto di linea del segmento pubblico a tariffa amministrata. La signora Anna coglie proprio il punto della faccenda, secondo me. Chi disconosce questo, disconosce il fatto che questi tipi di offerta e di domanda si incrociano volendo cose diverse, offrendo e chiedendo cose diverse, soddisfacendosi in maniera diversa, non attraverso l'albergo. Punto fondamentale. Infatti Anna dice molte delle persone probabilmente in albergo non ci andrebbero comunque, magari rinuncerebbero anche a venire un weekend a Milano, se nel caso di Milano, perché preferiscono proprio questa formula più umana, vogliamo dire, nel senso, nel caso di Anna, nel senso del rapporto umano. Esattamente, del come nei paesi in cui l'home restaurant è più radicato da tanti anni, i turisti vanno alla ricerca di quell'occasione perché ci si trova spesso tra turisti di paesi diversi a cena, un'occasione in cui ci si incontra e si parla come non si farebbe a un ristorante in cui un gruppo familiare va solo per i fatti suoi. Sono proprio cose diverse, ecco, per chi le conosce. Allora sentiamo Mario da Siena. Buongiorno Mario. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. No, stavo ascoltando prima, dicevate del problema della burocrazia. Sì. Io vengo da una famiglia di albergatori, noi siamo massacrati dalla burocrazia. Certo. Tutti, non che voi siate esenti. Però non so, vigili del fuoco, pratiche alla ASL, pratiche, mentre la parte, diciamo, delle case vacanze in genere non sottostanno a tutta questa massa di... Però Mario, è un po' il discorso che faceva prima Oscar, cioè invece di individuare il problema nella burocrazia, la individuate nel... vedete, cioè la grande burocrazia vi fa litigare tra contribuenti, diciamo così, no? Voi dite, ma loro sono meno massacrati di noi, ma il nemico in questo non sono loro che sono meno massacrati, ma chi vi massacra o no? Non è d'accordo, Mario? Cioè, loro non hanno burocrazia, toglietela anche agli alberghi. Io dico questo potrebbe essere una battaglia legittima, via la burocrazia, cioè un po' meno burocrazia, ma non solo agli alberghi, a tutti. Esatto. In Italia ci vorrebbe proprio una mannaia sulla giorno burocrazia. Che faccio osservare, iniziamo a ragionare un po' tutti così a catena, il re è nudo, a quel punto il re è nudo. Ecco, quindi questo dovrebbe essere un po' l'imposta, capire che è più conveniente per ciascuno e per tutti ragionare così. Chissà la burocrazia nuda com'è. Una brutta signora. Il problema non è infatti quella di dire si copra, perché lei è molto abile a coprirsi, lei non ha bisogno di photoshopping per coprirsi. La madama tassazione, madama burocrazia sono le gemelle della chirurgia, ecco. Capisci? Però Mario pone una problematica, dice: noi che siamo vessati come categoria, certo. Cioè ci troviamo di fronte a tra virgolette concorrenti, a volte non lo sono, a volte lo saranno, a volte lo saranno anche, a volte in alcuni casi sì. Però sono invece più meno vessate di noi, e questo crea una situazione di squilibrio, di senso di giustizia. Non gli pare vero sentir dire vieni adesso, lo dicono loro, guarda, non ero io, caro host, non ero io, lo dicono loro e io devo accontentarlo. Perfetto, questo è il meccanismo dell'autodeferimento al tribunale dell'inquisizione. Questo. Dino da Padova, buongiorno Dino. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Volevo spostare leggermente il fuoco, cioè quello che volevo mettere in evidenza è la frase del responsabile di Airbnb che ha detto che siccome lascia sul territorio italiano mi pare di aver capito, 97% del... Sì, 97% ha detto. L'anno scorso 97%. Allora io che lascio il 100%, anch'io posso fare a meno di pagare le tasse italiane? Ma in che cosa secondo lei Airbnb non paga le tasse italiane? Legge, perché esatto. Sa, cioè, tra il ragionamento numerico e la conclusione, le chiedo qual è il nesso logico? Perché non paga le tasse italiane? Il nesso logico è l'argomento più generale costituito dall'economia immateriale e del fatto che l'economia immateriale viene utilizzata per fare elusione, cioè io prendo i miei profitti, li trasferisco in uno stato dove la tassazione è migliore per me. Ecco. Questa cosa la possono fare certi signori, gli imprenditori italiani di sicuro, quelli onesti, non lo fanno. Imprenditori italiani si traduce automaticamente in competizione scorretta come vuole sul mercato italiano. Io quando la vedo così apodittica so già che se faccio obiezione, ha già detto quelli onesti, no, le potrei dimostrare migliaia e migliaia di imprese che hanno gli intangible, come si può fare del tutto legittimamente nelle regole europee, in altri paesi europei, che siamo in Europa, capisce? Si può scegliere liberamente gli ordinamenti in cui c'è la minore imposizione e lo si può fare del tutto liberamente alla luce del sole, e tant'è che molti lo fanno. Ecco, l'idea che, ripeto, operazioni condotte da server automatici siano assimilabili a strumenti di impresa necessari alla realizzazione del bene d'impresa invece fisici è un'idea sbagliata. Lo Stato ve l'ha messa in testa ancora una volta, perché voi diciate: hai visto l'impresa multimediale tecnologica che fa operazioni in digitale con intangible, appunto, cioè brevetti, software, eccetera, eccetera. Loro sono furbi e, come dice lei, evadono ed eludono. No, è una forma, e i beni strumentali di cui si servono sono diversi da quelli dei beni fisici. Allora, però su questo io non voglio, siccome non lavoro per l'agenzia antiraccolta delle tasse, io non faccio questo di mestiere, osservo solo gli effetti di come vi hanno messo in testa queste cose. Dopodiché io rispetto la sua opinione, lei è liberissimo di pensarla così, e se ne siete in tanti, io sono da solo. Però riflettiamoci un secondo. C'è Paolo da Roma. Buongiorno Paolo. Sì. Buongiorno. Senta, io sono proprietario di una casa vacanze di Roma. regolarmente iscritto, ho fatto tutta quella pratica burocratica che diceva la signora prima, infatti mi era preso un esaurimento nervoso per fare tutto l'iter, diciamo. Vabbè, ce l'ha fatta però, ce l'ha fatta alla fine. Sì, sì, ce l'ha fatta. Si può fare. Io ho messo in su questa casa vacanza per mio figlio che non trovava lavoro, e volevo dire che questa opportunità che dà Airbnb, ma anche altre piattaforme ovviamente, hanno dato la possibilità a migliaia e migliaia di giovani di trovarsi uno straccio di stipendio. Ha fatto un investimento e sta andando bene, mi sembra di capire. Ha creato un'opportunità di lavoro a suo figlio. Opportunità, ma io siccome sono, diciamo, faccio, mio figlio fa questo lavoro, quindi sono in contatto con altre case vacanze e le garantisco che c'è tanta gente, tanti ragazzi che perlomeno hanno un introito, diciamo. Poi il fatto, il problema è delle case in nero, delle case vacanze in nero, ma basterebbe che su ogni sito uno mette il numero di licenza che ti rilascia. Ma guardi Paolo, c'è il problema del nero, c'è ovunque, nel senso, poi l'illegalità, quella si deve combattere, cioè come ci ha detto il responsabile di Airbnb, loro dicono e ricordano a tutti che bisogna pagare le tasse, bisogna segnalare le persone che ci sono, poi uno le regole le può rispettare e semplicemente non rispettare, che Airbnb dice non faccio io il mestiere dello Stato di esattore. Ecco. Comunque ci dobbiamo fermare qui. Andiamo a celebrare la vittoria della Juventus in Champions League con un bel caffè. Grandi forza. E soprattutto domani. Poi attenzione, perché c'è un meetup qui alla chiesa dietro l'angolo. Ci vieni al meetup dei 5 c'è un meetup dei grilli. Sì, no, guarda, ho visto fuori. No. Sì, assolutamente sì, quindi sono le nuove forme di aggregazione. Dio lo vuole, sarà il motto della lista elettorale. Domani.